Non abbiamo la locandina, no? Da mettere come sfondo. Mi sposto un po' così, sì. C'è posto per tutti. Attenta, ne potrei sentire. Attenta, ne... Sì, mi fai gli scherzi, togli la sedia. Facciamo togliere la mascherina. Però prendi soprattutto le signore, cioè io non voglio, esatto, bravo Yuri, perché va bene tutto, però... No, ma se lei riesce a farmi venire bene in foto, non farmi uscire, grazie. Le macchine fotografiche oggi come oggi sono... Magiche? Sono una centrale. Qualche materiale può farmi cinese, tutto... No, se vuole, avrei ma per l'articolo, tanto che viene Guercio. Sì, lui scrive, io faccio la foto con i carabinieri. Sì, io so, scrive, Guercio chiederà di sicuro il PowerPoint. Un po' peggio. Ma dico, Guercio chiederà poi il materiale. Ah, sì, ok. Non la dico. Non la contatto di no, arriva il Dario, con l'inventario. Tu chiedi, c'è una cosa scusa. Cioè, non lo so, cioè, perché ha una scarsa considerazione. Questa sera scappa. Basta. Tu chiedi. Non ci proponiamo più a ordinare il seminario per i prossimi 5 anni. Che c'è? Ma per favore, bellissimo. Cioè. Sì, non so. Conosci il Beppe che guidi i seriali? Questo Giuseppe. Sì, Beppe è un sì, lo stavo pensando. Sì. Cioè, sì. Quando si cerca uno un volontario si va da Beppe. Ah, sì. Fanno così tutti ormai. Domenica non sono all'Overe. Sei all'Overe? Ci sei tu? No, non vengo domenica. Ma che lo sono? 35. Non ho salutato tuo marito. Ma neanche tu. Hai salutato sì, tuo marito. Sì, ho fatto ciao per la manina. E Manandia lo conosco. L'avevo incrociato. Ci siamo incrociati in città. Ma si chiama Codeca? Codeca? No, Codeca. Il Matteo Capcasa, detto anche Codeca. Non ho ancora guardato. Sì. Ogni volta però. Alla fine potremmo prendere un caffè. Guercio lo conosce? No. Da quello che io lo conosco molto da quello che scrivo. Non leggo. Gli è affidata un po' la cultura, la linea culturale che è tutto Dio. Lui non sarebbe. No, lui sarebbe anche. Io non lo conosco di più. Sa anche tenere il ramo da pelle. Ogni tanto va un po' però. No, questo è come detto da si adegua molto alla linea del giornale, condiscendente, per accomodamento. Penso che all'eco la vita sia questa. Non era così con lo Spagna. È stato peggio. Molto meglio. Meglio. Con Don Spada c'era qualcuno che poteva fare tutto quello che voleva. Li sceglieva lui. Ah, cioè, solo che adesso non c'è più una voce discorde. Ma perché c'era una voce discorde? Certo. Perché collaboratori di Don Spada è stato Naresi. Naresi è un ragazzo che io me lo ricordo studente, movimento studentesco e tutto, lui l'ha preso immediatamente. No, perché ripeto, non ho sentito dire. No, se vuoi dire che era comandava nel vero senso, sì, sceglieva, però sapeva scegliere anche qualche voce un po' discorde. adesso è... Sì, sì, sì, no, proprio... Come un direttore incapace. Non so perché... C'è bisogno di dettare. Saluta la Maddalena Chiappa, che ha visto la locandina. Aspetta. Brava, la pensione era messa in crisi. Sì, no, poi noi chiudiamo e ci saremo davanti. Ciao Dario, hai portato l'archivio? Voglio scherzare. Si è autosegnalato. Bene, se ci accomodiamo, iniziamo, così stiamo anche nei tempi. Vorremmo concludere prima delle sette. E niente, io sono Cesare Fedili, faccio parte del consiglio direttivo di Archivio Bergamasco. E poi sono dietro. Quindi siamo molto contenti come Archivio Bergamasco di ospitare questo incontro di presentazione del lavoro di riordino e di inventariazione dell'archivio delle ACLI provinciali. Anche perché la nostra associazione, sin dall'origine, negli anni 70-80, fine 70, inizio 80, ha avuto un grande interesse per gli archivi e per quanto essi rappresentano per la ricerca storica. È quasi pleonastico dire la stessa denominazione del nostro centro studi Archivio Bergamasco, evoca questo forte interesse che l'associazione ha e che è ribadito anche dalle finalità statutarie. E quindi l'incontro di oggi si inserisce in un percorso piuttosto lungo, iniziato, come dicevamo, negli anni 80, è un percorso fatto appunto di attenzione agli archivi e di cui vorrei richiamare alcune tappe principali. Negli anni 80-90 sono stati organizzati corsi per conoscere le molte importanti fonti archivistiche del nostro territorio. Vennero tenuti corsi, lezioni di formazione di archivisti in collaborazione con l'Archivio di Stato, con la Regione Lombardia, la Soprintendenza Archivistica, che furono poi delle promesse per molti lavori di inventariazione che vennero effettuati negli anni successivi. Vorrei ricordare anche l'importante convegno del 27 e 28 novembre del 98, che fu organizzato in collaborazione con il Museo Storico della Città presso la Sala Capitolare, ed è intitolato Gli archivi storici della provincia di Bergamo, 20 anni di valorizzazione di ricerca, esperienza e confronto, dove presentammo le realtà di molti archivi di amministrazioni statali, di amministrazioni locali, archivi ecclesiastici, archivi di enti assistenziali, di impresa, personali e anche l'archivio sindacale della CGIL. Ecco, più di recente proprio è in corso questa ultima iniziativa, quella che vi presento, Vademecum. Abbiamo organizzato un corso online dove vengono presentati gli archivi notarili, ecclesiastici, l'archivio comunale di Bergamo, archivi catastali cartografici, vabbè, poi c'è la locandina anche pieghevole sul tavolo all'esterno, potete anche consultarlo voi. Perché abbiamo voluto proporre questo corso che dato avendo un buon successo di iscrizione, sono più di 50 iscritti, è un corso online, e perché ci siamo resi conto che in questi ultimi 30 anni sono cambiate molte cose e sicuramente il meglio nel panorama archivistico bergamasco. Sono stati acquisiti dagli istituti conservatori nuovi fondi, numerosi fondi, sono stati compilati nuovi inventari, sia di fondi già posseduti sia di quelli di recente acquisizione. E poi gli istituti si sono dotati di siti web dove illustrano il loro patrimonio archivistico e hanno pubblicato anche online gli inventari e i materiali utili alla ricerca. E poi sono state anche avviate campagne di digitalizzazione di serie d'archivio, di atti, di mappe, disegni, fotografie e documenti importanti. Quindi pensiamo che il lavoro di inventariazione e di riordino che presentiamo questa sera si inserisce in questo progetto, in questo percorso. È per questo che come Archivio Bergamasco ci congratuliamo con la presidenza delle ACLI, con gli organi direttivi delle ACLI, che l'hanno sostenuta, che hanno creduto in questa iniziativa che per noi è importante, e soprattutto perché poi l'hanno affidata a delle professioniste qualificate ed esperte che oggi ci presenteranno il loro lavoro. Grazie a tutti di essere intervenuti, io darei la parola al presidente delle ACLI provinciali, Daniele Rocchetti. Grazie Cesare, e grazie all'Archivio Bergamasco per l'opportunità data di questo incontro. E una domanda: perché abbiamo deciso di finanziare e realizzare il progetto di riordino e di archiviazione del nostro archivio? Io dico spesso che siamo nani su spalle di giganti. In tempi complessi l'Italia è divisa in due e per metà ancora in guerra. In quell'Italia dei laici credenti decisero di dar vita a un'associazione che mettesse al centro il Vangelo, detto laicamente, nella città plurale, parlando di lavoro, di economia, di democrazia e di politica. Sapete che le ACLI furono costituite a Roma nel luglio del 1944, a seguito della firma del Patto di Roma. I tre rappresentanti delle componenti dei lavoratori, quella comunista con Di Vittorio, quella socialista con Canevari, quella cattolica con Achille Grandi, firmarono appunto il Patto di Roma, e quindi di fatto la prima organizzazione sindacale. Le ACLI nascono come forma sindacale. Nel 50 c'è la rottura dell'unità sindacale, nasce la CISL e le ACLI si occupano di far formazione ai lavoratori e dirigenti e poi avviano già le prime forme di patronato per i lavoratori. Le ACLI bergamasche hanno quasi 80 anni di storia perché nascono l'anno dopo la fondazione di quelle nazionali, nascono il 23 settembre del 1945. Ancora oggi abbiamo quasi 10.000 iscritti e 40 circoli sparsi su tutto il territorio bergamasco. Numeri e circoli certo meno consistenti rispetto a un tempo, ma non per questo forse non significativi. Il riordino, l'ottimo lavoro fatto, ha permesso anche di cogliere le radici di questa associazione. Quando feci la proposta di andare al riordino, in diversi mi dissero che non ne valeva la pena e che erano soldi buttati. Io credo che il presentismo che non ha radici è una tentazione nella quale rischiano le associazioni di cadere. Credo invece nel valore di un archivio, vedrete dopo, sono 370 faldoni che ora messo a disposizione di studenti e ricercatori anche attraverso borse di studio. Una è stata assegnata da poco. Credo quindi un lavoro di archivio messo a disposizione di studenti, ricercatori, per dare memoria al presente perché il futuro abbia la garanzia di un passato. E io spero che le ACLI siano un'associazione capace di custodire una memoria capace di futuro. Questo è il senso della scelta fatta, quindi grazie davvero, rinnovo la mia gratitudine all'Archivio Bergamasco e in modo particolare grazie mio e della presidenza delle ACLI a Giulia Todeschini, Patrizia Talpo e Nadia Bassis per l'ottimo lavoro svolto. Grazie Presidente Rocchetti, darei la parola a Mario Pelliccioli, socio di Archivio Bergamasco e che coordina con me questa serata. Buonasera, io credo che ci sia poco da dire questa sera, ma ci sia soprattutto da ascoltare chi ha lavorato per riordinare l'archivio. Però una cosa voglio dire, sono molto contento che ci sia questo incontro di interessi tra un'associazione che cura la memoria della provincia attraverso anche gli archivi, parlo di Archivio Bergamasco, e un'associazione che ha pensato, nonostante la fatica che abbiamo vissuto anche un po' insieme, ha pensato di badare un po' la propria storia, di riordinare le idee della propria storia. È un incontro, è un incrocio che secondo me è molto bello e molto interessante. Mi sono reso conto sin dai primi momenti in cui abbiamo cominciato a parlare della storia delle Acli, in maniera molto nebulosa, a dire la verità, assieme a Cesare, ci siamo resi conto che le Acli hanno attraversato questi 70 anni di storia non a margine, ma proprio dentro, nel mezzo della società. E che tutti i momenti, gli snodi della storia tra la seconda metà del Novecento e i primi anni del 2000 ha visto protagoniste anche le Acli. Ecco, quindi credo che non sia cosa da poco l'aver restituito anche alla società, perché un archivio non serve solo a conservare la propria memoria, ma serve a mettere a disposizione degli altri un patrimonio che non serve solo a fare la storia delle Acli o a capire la storia delle Acli, ma serve a capire la storia del nostro territorio. Per cui sono ben contento che dalle difficoltà iniziali che abbiamo incontrato siamo arrivati adesso ad avere quantomeno una buona parte, non completa, ma sono sicuro che col tempo verrà conclusa e continuata e conclusa del riordino dell'archivio. Grazie di tutti. Bene, prima di passare la parola veramente alle relatrici, le presento brevemente, sono quindi archiviste professioniste, quindi sono laureate, diplomate presso la scuola, alla scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Milano, hanno alle spalle una lunga esperienza nella riordino e inventariazione di vari archivi, Giulia Todeschini e Patrizia Talpo hanno collaborato a riordino e inventariazione della sezione moderna dell'archivio della MIA con Gianluca Perondi come responsabile. Questa sezione è stata poi depositata da alcuni anni presso l'Archivio di Stato. Poi per Giulia ricordo tutto il grosso lavoro di riordino delle cartelle cliniche del manicomio di Bergamo, che è depositato presso l'ospedale neuropsichiatrico provinciale, quindi questo grosso lavoro del progetto Cartella Legale. E poi attualmente si occupa e è responsabile degli archivi documentali delle collezioni del Museo delle Storie di Bergamo. Fa parte e collabora con l'Archivio Storico Diocesano di Bergamo come membro del Consiglio Archivistico Diocesano. Patrizia Talpo, tra le tante cose che ha fatto, è anche fa parte dell'equipe dell'Officina dello Storico, che è questo laboratorio di valorizzazione del patrimonio culturale e delle fonti archivistiche della Fondazione MIA. Nadia Bassis collabora a sua volta con l'Archivio Storico Diocesano, mi sembra che adesso lavori presso il Museo Storico, sbaglio? Il Museo delle Storie, ecco. Sì. Bene. Taccio e lascio la parola a Giulio Todeschini. Grazie Cesare, buonasera a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti ad Archivio Bergamasco per averci invitato a presentare questo lavoro e a Daniele Rocchetti per averci invitato a realizzarlo, nel senso che 2019, all'inizio, fine 2018, inizio 2019, mi ha contattato dicendo avremmo voluto scrivere una storia delle ACLI che andasse a, io vi ho preparato delle slide, che andasse a completare quella che era già stata tracciata da Lino Bosio in occasione del 40° anniversario della fondazione delle ACLI. E confrontandomi con, lui mi diceva, confrontandomi con Cesare e con Mario, ci siamo resi conto che la cosa fondamentale era partire dall'archivio. Archivio che è conservato presso ACLI Service, quindi in via Lattanzio Querena, conserva documentazione dal 1945, poca, fino al 2017 e consiste in circa, quando abbiamo fatto il primo sopralluogo avevamo conteggiato circa 370 faldoni con documentazione relativa alle carte prodotte dalla sede provinciale, le carte prodotte dai circoli, le carte di gioventù atlista e quelle degli assistenti spirituali, a cui si aggiungono gli scatoloni che potete vedere nella parte bassa degli scaffali relativi al cosiddetto archivio della pace. Quando poi abbiamo steso un progetto di intervento, abbiamo valutato di iniziare comunque con la schedatura, il riordino e l'inventariazione della parte prodotta dalla sede provinciale, gioventù atlista, assistenti spirituali, lasciando in un secondo momento le carte dei circoli, l'archivio della pace e poi quei materiali che sono arrivati in corso d'opera, perché poi un po' per passaparola, un po' proprio sollecitati dal presidente, alcuni ex atlisti hanno versato le loro carte, chi poche, chi tante, poi vedremo alcune fotografie che abbiamo scattato. Lo scopo di produrre un inventario era, da un lato, per verificare quali materiali erano effettivamente conservati nell'archivio e dall'altro appunto fornire uno strumento per la consultazione di questi materiali. Esisteva di fatto soltanto un file Excel molto importante e molto prezioso realizzato da alcuni obiettori di coscienza coordinati da Emanuela Filisetti. Erano più fogli Excel con riportati per ciascun faldone dell'archivio un numero progressivo che chiaramente identificava la busta, il faldone, e poi tutto quello che a dorso era indicato su immagini dei faldoni. Però di fatto era stato un lavoro che non era entrato nel merito delle carte effettivamente conservate all'interno di quei faldoni. Quindi per una qualsiasi ricerca si andava un po' a tentativi, nel senso era comunque uno strumento fondamentale, ma non si poteva parlare di inventario. E quindi abbiamo intrapreso il lavoro. Alla fine del lavoro abbiamo trovato, tra le carte di Giulio Mauri che sono arrivate a febbraio del 2020, questa brevissima descrizione dell'archivio e delle carte dal 45 al 60, una descrizione probabilmente in funzione di uno studio sulla questione sindacale nel secondo dopoguerra. La documentazione era veramente poca all'epoca, perché è descritta in mezza pagina in formato A4. Il prodotto nostro, diciamo, è andato a descrivere una quantità invece di materiali decisamente maggiore. Faccio un passo indietro, nel senso che abbiamo esaminato le carte, come sempre quando si prende in mano, cioè si inizia un progetto di riordino, abbiamo esaminato le carte e devo dire che siamo state anche abbastanza fortunate, perché la documentazione, per quanto aveva una struttura, aveva un'organizzazione, era divisa in sezioni, questi sono i nomi, diciamo, delle sezioni, la sezione storico, quello moderno. Quelle contemporanee erano molteplici, perché? Perché ogni volta che una parte della documentazione veniva versata all'archivio storico, si aggiungeva un pezzettino di contemporaneo. Lo storico era l'unica parte che aveva subito un significativo intervento di riordino, che era andato a stravolgere completamente quello che era l'ordine originale delle carte, tant'è che sulla documentazione si trovavano delle classificazioni che non corrispondevano al titolario in seguito adottato, per cui di fatto probabilmente all'inizio degli anni Ottanta è stato adottato un nuovo titolario e le vecchie carte sono state adattate a questo titolario, che poi si è mantenuto ma subendo delle modifiche nel corso degli anni, tant'è che poi lo vedremo, si è partiti da 45 titoli di classificazione e si è arrivati a 25, 26, insomma c'è stata una modifica nel corso degli anni. Beh, qua un po' di numeri, abbiamo schedato 1465 fascicoli per un totale di 288 faldoni, non corrispondono ai 370 di prima perché mancano quelle parti che verranno riordinate in un secondo lotto di lavori. Chiaramente il lavoro è consistito nel descrivere il contenuto dei fascicoli, riordinare cronologicamente le carte. Nella slide precedente dicevo, questa documentazione era già strutturata in categorie, classi, sottoclassi e a loro volta la documentazione era organizzata in fascicoli annuali e pluriennali, quindi c'era già una bella struttura. Si trattava di cercare di descriverla, renderla omogenea per quelle parti contemporanee in cui il titolario è cambiato più volte a breve distanza di anni, e poi chiaramente verificare dove qualcosa era stato collocato fuori posto, è stato rimesso nel posto corretto. L'intervento poi è il classico intervento, quindi riordino cronologico delle carte, pulizia dei fascicoli, eliminazione di spilli, graffetti, elastici, buste di plastica, scarto delle eccessive copie, perché quando ti trovi 10, 12, 15 copie della stessa circolare non ha senso conservarle. Noi avevamo fatto una scelta, 3 copie per ogni documento di qualunque tipologia fosse, il resto è stato scartato anche proprio per consentire non occupare troppo spazio, che è di solito un grosso problema per la conservazione degli archivi. Abbiamo compilato poi delle schede serie, delle schede introduttive relative alle varie serie archivistiche e poi ricondizionato, cioè sostituito le camicie ammalorate, e in questo caso si è deciso di sostituire tutti i faldoni, in quanto comunque la dicitura dorso di quei faldoni era già stata perfettamente descritta nei file Excel realizzati dagli obiettori. Di conseguenza ci siamo sentiti, anche perché erano comunque faldoni con etichette che si staccavano, insomma ammalorati, e quindi visto che la situazione precedente era perfettamente fotografata, ci siamo sentiti di poter sostituire i vecchi faldoni con dei faldoni nuovi. Questa è la struttura, l'albero in questo momento è chiuso, è il classico albero come ce l'abbiamo sui nostri computer di casa, e le sezioni che abbiamo individuato sono appunto i verbali degli organi dirigenti provinciali e poi quelle sezioni che abbiamo trovato già organizzate, quindi lo storico, il moderno, il contemporaneo. Abbiamo messo gioventù aclista tra lo storico e il moderno perché è una sezione un po' trasversale, cronologicamente parlando, e in coda agli assistenti spirituali. Questi sono i titoli dello storico, quando dicevo 45 categorie, 4 in realtà mancano, non siamo noi che abbiamo sbagliato nel conteggiare, erano proprio delle categorie mancanti, per cui abbiamo deciso, visto che comunque l'archivista fotografa la situazione e cerca di mantenere quello che è l'ordine che l'ente ha dato, abbiamo mantenuto, quindi abbiamo la categoria 1, non abbiamo la 2, abbiamo la 3 e via dicendo, quindi alcuni numeri mancano. Nel corso del tempo il titolario è andato semplificandosi, per cui tra gli anni 80 e gli anni 90 le categorie diventano 27, dalla metà degli anni 90 al 2007 sono diventate 24, ma parlando con Emanuela Filisetti si diceva sarebbe già da modificare il titolario, alcune funzioni non ci sono più, altre sono subentrate, per cui il titolare di classificazione viene costantemente aggiornato in base a come cambiano le funzioni e le attività dell'ente. Questa è una schermata del software Alchimista, noi abbiamo deciso di utilizzare questo, viene fornito gratuitamente da Regione Lombardia, ma rispetta quelli che sono tutti gli standard internazionali di descrizione archivistica, consente, è interoperabile con tutte le banche dati nazionali della sovrintendenza e del ministero, per cui ci sembrava un valido strumento per la descrizione di questo archivio. Ma di fatto che cosa troviamo nell'archivio delle arti? Perché poi credo sia questo quello che interessa. Noi normalmente diciamo che l'archivio è lo specchio dell'ente che lo ha prodotto e quindi le tipologie documentarie dovrebbero dipendere, cioè riflettono le funzioni e le attività che l'ente svolge. Allora, questo è il sistema ACLI oggi che io ho tratto dall'archivio che abbiamo preso dall'archivio, dal sito delle ACLI. Le realtà sono molteplici. In passato le ACLI non erano così articolate, però cercando un po' anche di riproporre gli stessi colori e gli stessi riquadri, abbiamo creato questo piccolo schema in cui troviamo le principali tipologie documentarie presenti nell'archivio. Innanzitutto abbiamo i verbali delle sedute, dei consigli di presidenza, dei consigli provinciali, gli atti congressuali, provinciali ma anche regionali quando dopo gli anni 70 e nazionali, l'attività organizzativa della sede provinciale ma anche dei circoli, delle zone quando i circoli vengono strutturati in zone, con le nomine dei quadri dirigenti, le campagne di tesseramento, i rapporti con la sede nazionale e le sedi regionali, tutte le varie iniziative promosse in collaborazione e poi le origini e i rapporti tra la sede provinciale e tutte quelle organizzazioni delle ACLI che man mano sono nate, quindi il patronato, l'ENAIP, l'ENARS, ACLI Terra, ACLI Casa, ACLI Colf, la Commissione Femminile, Gioventù Aclista e tante altre, quelle che poi di fatto vediamo in quello che è il sistema delle ACLI di oggi, perché comunque arrivando fino al 2007 le carte, bene o male, arriviamo a coprire tutto il sistema ACLI. Poi c'è tutta la documentazione relativa all'attività formativa che è rivolta da un lato agli aclisti ma dall'altro anche ai lavoratori, quindi corsi professionali, la scuola sociale prima, l'organizzazione dei convegni, i rapporti con le organizzazioni sindacali, partiti politici, la Chiesa Cattolica chiaramente e tutti gli interventi e le indagini relativi ai settori della vita sociale come la scuola, la salute, i servizi sociali, il lavoro, la formazione religiosa, le proposte per il tempo libero, le iniziative in campo internazionale, insomma i contenuti sono molteplici e rispecchiano tutti quelli che sono i campi di intervento e di attività delle ACLI. A questo punto abbiamo cercato di prendere alcuni esempi di documentazione per farvi vedere effettivamente quello che si trova. Come diceva il presidente Rocchetti, le ACLI di Bergamo nascono il 23 settembre del 1945 in occasione del cosiddetto convegno dei pionieri tenutosi a Lovere. Allora, di questa documentazione noi nell'archivio ACLI non abbiamo trovato nulla, però resterebbero da indagare le carte conservate da un lato nell'archivio della Curia, l'archivio diocesano e in particolare nel fondo Rezzara, dove probabilmente qualcosa si potrebbe trovare. La documentazione più antica che troviamo nell'archivio delle ACLI è il primo registro, che è questo, dei verbali delle sedute del Consiglio Provinciale. Vi si trova documentazione. Allora, innanzitutto l'elenco dei membri, e quindi abbiamo i membri della presidenza, i delegati ai servizi, i membri del consiglio, l'assistenza ecclesiastico con i recapiti di ognuno, per cui erano tutti perfettamente elencati. E poi ci sono le prime registrazioni. Questa purtroppo ha una scrittura pressoché illeggibile, mentre quest'altro, che è il Comitato Provinciale, riunitosi il 13 novembre del 1945, diciamo è la registrazione più antica che noi abbiamo trovato in questi registri. Erano registri misti all'inizio, per cui ad esempio vi troviamo anche i verbali delle sedute del Comitato di Intesa Sindacale. La particolarità dei primi registri dei verbali è che non si limitavano a verbalizzare le sedute, ma inserivano anche le relazioni, ad esempio, dei convegni, quindi il convegno dei presidenti di circolo, delle delegate femminili del 48, segno che comunque questi momenti comunitari avevano una grande importanza per il gruppo dirigente. E questa cosa di inserire nei registri dei verbali anche i documenti programmatici, i dati sul tesseramento, le relazioni sulle attività, i bilanci, e chiaramente vengono discussi, però anche copie di presenza cliste del lavoratore lombardo, ritagli stampa, relazioni al collegio dei revisori dei conti, insomma i registri sono da un lato sì strumento per verbalizzare le sedute, ma dall'altro sono strumento per testimoniare un po' a 360 gradi la storia delle ACLI, quindi sono preziosissimi. Le serie sono pressoché complete, per cui noi abbiamo dal 1945 al 1975 questi verbali misti, cioè Consiglio di Presidenza e Consiglio Provinciale. Poi si ha la divisione, e quindi la serie del Consiglio di Presidenza, la serie del Consiglio Provinciale. Poi per pochi anni c'è questa raccolta di appunti e note, cioè materiali preparatori, ma solamente dal 74 al 79, e poi altre commissioni, magari c'è il registro della singola commissione, cioè sono pochi materiali che però coprono un arco cronologico abbastanza ampio. Un'altra sezione molto ricca e nutrita è quella relativa ai congressi, di cui magari vuoi dire qualcosa tu, Patrizia, perché è lei che si è occupata. Pensavamo comunque di raccontare un po' insieme i materiali trovati, perché sono organizzati sì in congressi nazionali, regionali e provinciali, vi si trova tantissima documentazione. Sì, soprattutto la serie dei congressi provinciali è una di quelle serie più complete della sezione storica, perché è in continuità dal 47 all'81, con un solo vuoto nella documentazione relativa al quinto congresso del 51, di cui peraltro nel congresso del 53 si trova allegata una relazione sull'attività svolta appunto nel biennio 50-51, e quindi diciamo che le informazioni si recuperano comunque. Solitamente nella serie congressi si trova tutta la documentazione relativa agli atti preparatori il congresso stesso, quindi anche bozze degli interventi, programmi a stampa, verbali delle elezioni dei singoli delegati poi ai congressi di volta in volta regionali e nazionali per quanto riguarda i congressi provinciali, alla fine rassegna stampa e atti del congresso. Per cui in linea di massima una documentazione molto completa che consente veramente di ricostruire questa tipologia, questa di serie, come possiamo vedere anche appunto da questi atti, in questo caso è proprio l'opuscolo delle attività delle ACLI del convegno. Poi ci sono anche proprio le cartelle dei congressisti e soprattutto appunto gli atti congressuali a stampa finali, che quindi danno memoria di quanto raccontato nell'ambito dei singoli congressi. Sì, poi a volte si trovavano anche la rassegna stampa, copie di presenza clista, ma soprattutto che sono utilissime, almeno dal mio punto di vista, sono proprio queste relazioni sulle attività in cui si tiravano le somme e si presentava quella che era l'attività svolta e quindi l'andamento del movimento. altra documentazione, come dicevo prima, le varie organizzazioni all'interno del sistema ACLI, quindi ad esempio del patronato, anche questo nato a livello nazionale nel 1947 per i servizi sociali dei lavoratori. La documentazione che noi abbiamo in archivio data solo a partire dal 1962. Vi si trovano lo statuto, le relazioni trasmesse al Comitato Provinciale ACLI sulle attività del patronato e i servizi offerti, le nomine dei membri del comitato direttivo e i rinnovi degli incarichi. In realtà, ecco sì, questi sono solo 4 fascicoli nella sezione storica. Il fascicolo più corposo e che tratta proprio del patronato e dell'attività del patronato, come diceva Giulia, è solo il primo fascicolo, perché i fascicoli successivi invece riguardano soprattutto il settore dell'emigrazione, mentre due successivi riguardano l'emigrazione, invece il terzo fascicolo è praticamente riguarda una giornata celebrativa della fondazione del patronato che si svolge circa un decennio dopo, quindi diciamo che nella sezione storica abbiamo poca documentazione se non appunto il primo fascicolo sul patronato. Vi si trova poi la documentazione relativa ai circoli, al di là di quella prodotta dai circoli e che non è stata oggetto del nostro intervento, però ci sono i rapporti tra la sede, come anche per il patronato, cioè i rapporti tra la sede provinciale e i circoli in questo caso, quindi la documentazione relativa all'organizzazione dei circoli, il monitoraggio delle attività svolte e anche le lettere che vengono inviate ai parroci di quei paesi in cui il circolo non esiste per favorire invece l'apertura dei circoli, e poi tutta quella che è la gestione dei circoli con licenza di spaccio bevande alcoliche, che richiedeva tutta una serie di autorizzazioni e di licenze, e di conseguenza la sede provinciale sosteneva e aiutava i circoli in questa parte, diciamo, burocratica della gestione del circolo stesso. Tanta e distribuita in serie diverse è la documentazione relativa alla Casa del Lavoratore di Clusone, fondata nel 1950. Lino Bosio nella sua relazione dice fondata perché si vogliono creare, non è il termine corretto, lavoratori non solo religiosamente e moralmente formati, ma anche adeguatamente preparati e costantemente aggiornati sui problemi economici, tecnici e sindacali del settore produttivo a cui appartengono, e aperti a comprendere e a seguire la vita civica dei comuni e delle province e quella politica del paese per poter giungere a parteciparvi attivamente. Quindi nelle carte dell'archivio si trova la documentazione relativa alla costruzione della Casa del Lavoratore, quindi il volantino di presentazione del progetto, la documentazione relativa alla raccolta fondi per la costruzione della casa, le tabelle riassuntive delle offerte ricevute, i prestiti chiesti, quindi diciamo tutta la parte che ha portato alla realizzazione e alla nascita della Casa del Lavoratore. Chiaramente poi anche la documentazione relativa all'inaugurazione, in questo caso c'è anche copia del telegramma inviato dal pontefice per congratularsi e la risposta di Monsignor Piazzi in occasione appunto dell'inaugurazione della Casa del Lavoratore. Ma poi si trova tutta la documentazione relativa alle attività che venivano svolte e quindi tutto quello che riguarda la scuola sociale. Anche qua io le virgolette che vedete è sempre Lino Bosio che scrive: vera e propria istituzione formativa permanente tesa alla formazione sociale e sindacale dei lavoratori secondo i principi della dottrina sociale cristiana. Tra le carte si trovano numerosi fascicoli relativi all'organizzazione dei corsi già a partire proprio dal 1950, cioè dall'anno di inaugurazione della casa. Corsi rivolti a tutte le tipologie più disparate, dai contadini agli addetti al settore tessile, agli amministratori comunali, ai militanti dei nuclei aziendali, ai soci ACLI, ai dirigenti aclisti e ai membri di gioventù aclista. Le dispense venivano elaborate a livello provinciale, alla fine dei corsi veniva sostenuto un esame finale. Qua avete, sempre da una di quelle relazioni sulle attività svolte, alcuni esempi dei corsi che venivano proposti tra gli anni 50 e il 53. Anche nelle carte dei sacerdoti, e quindi in particolare in quelli di sacerdoti, scusate, assistenti spirituali, in particolare in quelle di Don Santo Quadri, si trova documentazione relativa ai corsi della scuola sociale, e quindi si trovano i registri delle presenze, ve ne abbiamo messa un'immagine, gli elenchi degli alunni con le votazioni, i programmi e le sintesi dei corsi. Molto interessante è questo questionario che era stato sottoposto ai partecipanti al corso relativo alla situazione lavorativa e sindacale delle aziende di provenienza, e le domande vertono su temi un po' a 360 gradi, nel senso che sì, chiaramente dicono in quale azienda lavori, descrivi brevemente quello che è il tipo di produzione nella tua azienda, quali osservazioni hai da fare sul rendimento del lavoro tuo e dei tuoi compagni e colleghi, quali aspirazioni hai in merito al tuo posto di lavoro, come vorresti che fossero le relazioni tra dirigenti e dipendenti, siamo negli anni 50, inizio anni 50, hai qualcosa da notare in merito al comportamento dei compagni di lavoro tra loro e verso le compagne e colleghe? Quali le principali difficoltà religiose corrono nel tuo ambiente di lavoro? Nella tua azienda si lavora di domenica e nelle feste? Vengono riconosciuti quindi gli straordinari? L'ambiente di lavoro è riscaldato? Quindi vedete, cioè, veramente è un'indagine a 360 gradi. Il lavoro, l'ambiente di lavoro, il rapporto con la dirigenza, il rapporto con i colleghi, hai qualcosa da osservare in merito alla tua tutela fisica, quindi la sicurezza sul luogo di lavoro, sono contenti i tuoi compagni della paga, c'è un contratto della tua categoria, quindi andiamo più nell'ambito sindacale, ci sono state agitazioni sindacali nella tua azienda, per quali motivi, come si sono comportati i tuoi compagni e tu come ti sei comportato, quali sono le idee in generale appunto sul sindacalismo, c'è qualche tuo compagno di lavoro che per questo si distingue tra gli altri, perché ha maggior seguito tra i compagni, come si svolge l'assistenza, e quindi qua vediamo l'assistenza sanitaria, diciamo, ai lavoratori, come si svolge l'assistenza nella tua azienda quando qualcuno cade ammalato, ci sono delle istituzioni per questo nella tua azienda, mutue, fondi di assistenza, c'è la conferenza San Vincenzo, hai qualcos'altro da notare? Quindi questi quaderni, perché poi di fatto i corsisti, qua abbiamo delle immagini, i corsisti avevano lasciato i loro quaderni, sono una fonte preziosissima di quella che era la realtà, tra l'altro realtà anche molto diverse, nel senso c'è la Zopfi piuttosto che l'azienda metalmeccanica, qua abbiamo elencato alcune delle aziende di provenienza, le tipologie sono molteplici, il cotonificio, l'azienda metalmeccanica, la fonderia, i settori poi erano quelli dell'economia, cioè dell'economia del tempo, quindi chiaramente sì. Si andava a fotografare quella che era la situazione. Le indagini sono un po' una costante nell'archivio delle ACLI, un'attenzione per quella che era la realtà. Io non voglio dilungarmi troppo, quindi magari passo oltre arrivando alla nascita dell'ENAIP, quindi una struttura organizzata per la programmazione e gestione dei corsi. Guardo Patrizia, se vuoi dire qualcosa tu mi interrompi. Perché anche qua la documentazione parte dal 49, si hanno chiaramente i fascicoli sull'istituzione dei corsi, ma anche tutta la relazione, la riflessione della presidenza provinciale sul ruolo dell'ENAIP nel conferire ai giovani e agli adulti una qualificazione professionale integrata con una formazione civica e sociale. Si lavorava, cioè la formazione doveva essere su un doppio livello, sul piano sociale, per dare ai lavoratori una chiara coscienza dei loro diritti, dei loro doveri e dei valori cristiani a cui si dovevano ispirare. E sul piano professionale, cioè fornire conoscenze, mestieri e professioni su cui poi il paese avrebbe fondato la ricostruzione della propria economia. Sì. Torno indietro? No? Ok. A questi e ai primi due fascicoli di questa serie che effettivamente riguardano questi aspetti a cui ha fatto cenno Giulia, cioè più organizzativi e di programmazione dei corsi, seguono una serie di fascicoli invece relativi ai singoli corsi. È molto interessante quello per esempio inerente l'istituzione di corsi professionali per edili, in cui praticamente si evincono le procedure e la realizzazione poi di corsi pratici con la produzione finale di manufatti di cui sono conservate poi le planimetrie, il progetto, la planimetria, la foto del manufatto stesso in vari comuni della provincia, soprattutto di area poi montana. Per cui questo è un esempio. Altra cosa, i corsi di formazione per esempio per docenti, più che di formazione di aggiornamento, proprio in relazione a quello che diceva prima Giulia, cioè la necessità di portare avanti sempre comunque nei confronti dello studente lavoratore una formazione che fosse sempre adeguata poi ai tempi, alla società, e quindi anche i maestri e i docenti vanno a scuola. Una cosa interessante di questa relazione finale di questo corso che sarà tenuto durante le festività natalizie è, a me ha fatto venire in mente Cesare e la sua didattica, perché dice: la relazione preceduta dalla consegna ai partecipanti di uno schema non ha avuto la caratteristica delle tradizionali lezioni espositive, ma di una conversazione nella quale l'argomento posto allo studente veniva presentato nelle sue possibilità di sviluppo e proponeva la ricerca delle soluzioni, quindi già una forma di didattica sì, una didattica non frontale, ma in cui vede laboratoriale quasi, in cui vede coinvolti i partecipanti, che tra l'altro appunto sono maestri, quindi avrebbero dovuto a loro volta, magari hai avuto qualche maestro che aveva seguito e ti ha trasmesso questo. Questa invece era una lettera di Renato Cassia che, rivolto al Vescovo, sottolinea e chiede al Vescovo di intercedere presso i parlamentari della DC proprio per riconoscere l'importanza della formazione. Leggo il secondo paragrafo: l'attività di formazione professionale ci sta particolarmente a cuore, perché offre la possibilità, prima ancora che alle ACLI, ai reverendi parroci, di seguire gli adolescenti e i giovani nel periodo più delicato del loro sviluppo spirituale e fisico-psichico, favorendone la maturazione alla luce della religione cattolica e dei principi etici e della dottrina sociale della Chiesa. Mi permetto quindi di domandare a vostre all'eccellenza vostra reverendissima di voler esprimere agli onorevoli parlamentari tale preoccupazione e impegnarli a fare il possibile perché tale attività non abbia a subire rallentamenti nella nostra provincia, ma anche se ne appoggi il naturale sviluppo. Quindi l'importanza della formazione era sentita da subito. Le donne, le racconti tu? Il ruolo delle donne nelle ACLI è subito sottolineato già dai primi congressi nazionali. a Bergamo la documentazione parte dagli anni 50. Sì, già dal congresso, dal primo congresso del 48 si sente l'esigenza, c'è una partecipazione delle donne al congresso e viene subito sottolineata l'esigenza di estendere le tutele alle donne lavoratrici, quindi di estendere tutele sia a livello assicurativo che previdenziale. Nel corso poi degli anni le donne iniziano a partecipare sempre più attivamente alla vita delle ACLI e danno vita appunto alle commissioni femminili a livello poi provinciale, all'interno delle quali vi sono da subito studi e indagini sulle come diceva Giulia prima, è una veramente delle attività di base delle ACLI, quelle di partire dall'indagine concreta di una realtà sulla quale poi si intende intervenire, quindi indagini sulle condizioni della donna in ambito lavorativo, ma anche la sua collocazione all'interno della società e della famiglia. Quindi istituzione poi di corsi sia professionali che comunque oltre a indirizzare verso una professione dovevano anche dare alla donna l'idea di quali leggi e quali regole dovevano comunque sulle quali si potevano comunque appellare per la gestione della loro attività lavorativa e istituzione poi di momenti di ritrovo, di riflessione anche di tipo evangelico, religioso, con momenti di, come si chiamano i momenti, proprio dedicati insomma con il sacerdote, ritiri spirituali dedicati alle donne. La documentazione anche qui nella sezione storica era suddivisa in modo non del tutto, era conservata in modo non del tutto omogenea, per cui avevamo quattro fascicoli con segnatura proprio della commissione femminile e invece avevamo una sezione un pochino separata, diciamo così, con più che altro raccolte di documentazione per materia. Quindi abbiamo conservato nell'inventariazione questo tipo di partitura e quindi abbiamo commissione femminile e poi abbiamo invece la donne, ACLI donne, che conserva appunto questa documentazione quasi un pochino più di raccolta, tematica, più che sì. Tematica, ecco. E potremmo andare avanti ore, poi ci dite voi. La commissione salute è un'altra delle commissioni presenti, di cui si ha documentazione dal 68 e raccoglie atti di convegni, corsi e incontri proprio sui temi della salute e della famiglia, in particolare la riforma sanitaria, la trasformazione del diritto di famiglia, la legge sul divorzio e sull'aborto, la creazione dei consultori familiari e di una commissione per i problemi sociali, per i problemi sanitari, scusate, e ospedalieri. Negli anni 70, ecco, la cosa molto interessante è che nell'archivio delle ACLI si trovano i riflessi a livello locale di quelli che sono i grandi fatti a livello nazionale e quindi la rottura, correggetemi, ecco, avvenuta nel 71 tra la CEI e le ACLI. Ecco, se volete intervenire voi su questo, vi vedo. Si trova la documentazione a livello nazionale, quindi le comunicazioni della CEI, la risposta del presidente nazionale, ma poi si trova anche la documentazione, la reazione locale per quelli che sono appunto questi grossi, questi importanti fatti nazionali. E quindi in questo caso, ad esempio, l'assistente spirituale che scrive a tutti gli assistenti ACLI di zona e di circolo dicendo: certamente sei al corrente delle ultime vicende riguardanti le ACLI e più specificatamente i rapporti nuovi che verranno ad instaurarsi tra le ACLI stesse e la gerarchia dopo la decisione del Consiglio di Presidenza della CEI del 6 maggio scorso. A questo riguardo ci corre l'obbligo di sottolineare la strumentalizzazione che la grossa stampa ben pensante ha messo in atto, presentando con notizie tendenziose la decisione della CEI come una sconfessione, quando invece di sconfessione non si tratta, ma di riconoscimento dell'autonomia delle ACLI e dell'impegno coerente e responsabile quanto cristiani dai laici nel temporale. Quindi la posizione è della realtà bergamasca è questa, quindi poi chiaramente l'assistente spirituale dice uno dei problemi che erano sorti era quello appunto del mantenere o meno la presenza di un assistente spirituale presso le ACLI. Don Pelis dice, in attesa quindi che venga, va bene, in concreto formulata la presenza nuova del sacerdote delle ACLI, continuiamo a dare, come per il passato, il nostro fattivo contributo sacerdotale e sottolinea, non dimentichiamo che gli aclisti, in questo gruppo di lavoratori cristiani operanti nel sociale, desiderano la presenza del sacerdote, quindi comunque una posizione ben chiara per quanto riguarda questo momento di rottura. Altra è la documentazione comunque relativa a questo momento, si trova la rassegna stampa, si trovano lettere interne, comunicazioni, corrispondenza proprio che ha portato poi alla posizione delle ACLI bergamasche in questo momento. Salto, proseguo perché sta veramente venendo tardi. Le inchieste, ecco, queste sono una cosa che troviamo... Ma magari appunto sì, mi collegavo al discorso precedente, cioè sugli anni 70, perché rispetto anche alla posizione rispetto alla CEI, una parte significativa, un ruolo significativo l'ha avuto sicuramente Gioventù Aclista. Okay. Che negli anni 70 veramente ha avuto un ruolo importante anche in quel dibattito, ma in quanto in realtà Gioventù Aclista raccoglieva effettivamente tutti quei giovani che nelle ACLI dovevano portare ad una formazione anche di tipo politico, quindi prese di posizione politiche, di lotta contro il capitalismo, movimento per la pace, anche posizioni critiche verso la Chiesa, come appunto nel caso citato prima da Giulia, e attività all'interno dei giovani lavoratori all'interno del sindacato, dei giovani studenti all'interno della Chiesa. Quindi effettivamente come movimento negli anni 70 ha avuto un grosso peso a livello poi dell'organizzazione generale delle ACLI. La documentazione Gioventù Aclista è molto corposa, ci ha dato anche qualche difficoltà a livello di riordino del materiale, proprio perché in parte era riconducibile direttamente al titolo dodicesimo, parlo sempre della sezione storica del titolario, per cui vi era documentazione con segnatura archivistica e molto ben riconducibile e organizzabile. In parte però c'era proprio a parete negli scaffali tutta una serie di faldoni con etichetta scritta a pennarello all'esterno senza alcun tipo di segnatura, che sembrava essere stata quasi accorpata direttamente da qualche responsabile del movimento di Gioventù Aclista, che aveva organizzato questo materiale separatamente dalla parte invece, diciamo così, proprio ufficiale e quindi organizzata in modo archivistico corretto. Quindi abbiamo valutato di conservare separatamente queste due parti e quindi abbiamo proprio creato una sezione apposita di Gioventù Aclista, come già avete potuto intravedere e vi aveva accennato Giulia nell'albero, esatto. E in Gioventù Aclista abbiamo creato un albero a sé stante che riproducesse comunque l'impostazione generale dell'archivio, in cui è stata organizzata la documentazione appunto conservata separatamente. Poi riorganizzando, anche ristudiando per esempio la serie dei congressi, abbiamo visto che effettivamente questa operazione aveva un senso, perché in documentazione relativa ad un congresso specifico abbiamo trovato frammischiata documentazione con segnatura archivistica che andava ricollocata nella serie della categoria 12 di titolario, e altra documentazione appunto che abbiamo fatto confluire noi nei congressi provinciali, essendoci creato proprio lo spazio apposito. Quindi molta molta documentazione e molto disordinata in origine. L'ultima sezione, e poi chiudiamo, è quella relativa agli assistenti spirituali, di cui si è occupata Nadia principalmente. Gli assistenti si sono succeduti dal 45 fino al 70, quando poi Don Pelis, di cui avevamo letto prima la lettera, è l'ultimo di fatto in carica a tempi recenti? Sì, fino a 15 anni fa. Ecco, quando invece torna ad esserci la figura dell'assistente spirituale, che aveva un ruolo molto ampio, nel senso che tantissima documentazione, anche relativa appunto alla scuola sociale, ai corsi, faceva anche una sorta di servizio di collocamento, cioè riceveva lettere, era veramente una figura molto importante all'interno delle ACLI, e quindi anche la documentazione prodotta dagli assistenti spirituali ha una sezione a sé molto importante, con documentazione appunto dal 44 al 70. Restano questi materiali che vedete, no, non solamente questi in realtà, comunque in realtà, esatto, sì, no, c'è tutta la documentazione dei circoli, e non è poca. E poi quella appunto versata nel febbraio del 2020 da Emma Manzoni Arnoldi, lei chiaramente, Pino Candiani, Giulio Mauri, Giovanni Zucchelli, che diciamo quello che vedete di maggiore entità, e poi appunto l'archivio della pace di cui avevamo già parlato, e poi chi lo sa, magari altra documentazione che si spera riuscire a recuperare per ricostruire appieno la storia di questa associazione. Grazie a tutti. Io ringrazio per questa relazione molto dettagliata, molto rigorosa, e che ci dà l'idea della ricchezza di questo archivio. Adesso, dato che siamo abituati anche a interloquire col pubblico, se ci fossero delle domande, curiosità, direi prima di riprendere la parola, dare la parola a voi, nel caso, chiarimenti, possibile, i nostri seminari hanno questa impostazione così dialogata tra relatore e pubblico. Una cosa solo telegrafica, gli ultimi nomi apparsi sono ex aclisti. Scusa, prendi il microfono, sì, perché c'è una videoregistrazione che poi pubblichiamo. Si chiede, scusa, se gli ultimi nomi apparsi sono chi sono queste definirli? Persone? Sono presidenti. Allora, Giovanni Zucchelli è stato presidente delle ACLI, io lascerei parlare magari tutti il presidente. Che dire, in apicali delle ACLI bergamasche, quindi Giovanni Zucchelli, presidente delle ACLI provinciali, Pino Candiani, che è stato in ENAIP e in presidenza provinciale Giulio Mauri e poi Emma Manzoni Arnoldi, che è una figura storica del coordinamento donne, è stata l'anima del coordinamento donne. Cioè, quindi sono tutte persone, in realtà Emma Manzoni, Giovanni Zucchelli, da poco scomparsi, quindi gli eredi, i parenti hanno passato il materiale che era in casa, invece questi sono lasciti che Mauri e Pino Candiani hanno portato in sede. Così è, ma siamo convinti che ci gira ancora molta roba e non tutto è stato consegnato. No, volevo dire... Aspetta, ho visto la mano alzata. Ah, scusa. Allora, solo a... No, volevo dire che dalla relazione mi sono sempre più convinto che appunto l'archivio è di un ente, e però riflette anche in questo caso la storia sociale, economica e politica ed ecclesiale della nostra provincia. E ancora più utile mi sembra questo riordino alla luce del fatto che molti partiti politici e organizzazioni sindacali non hanno degli archivi inventariati e riordinati. Quindi ben venga che un'istituzione importante come l'ACLI abbia realizzato almeno questo obiettivo, no? Che in parte rimedia purtroppo questa situazione. Tra l'altro, giustamente diceva prima il professor Chiriccioli, che io ringrazio perché senza il professor Chiriccioli e il professor Chinili niente di questo sarebbe stato fatto, che in realtà leggere la vita delle altre significa in parte leggere la vita della comunità. Io rimango impressionato perché negli anni 50, 60, 70 studi, c'era un centro studi, quindi c'era un ufficio studi delle ACLI di Bergamo che lavorava sul tema della mobilità, per esempio, che impressione, sul tema dello sviluppo dell'isola, perché sapete che nella zona dell'isola l'insediamento di molte realtà era una zona depressa, quindi si è favorito l'insediamento industriale di un certo genere proprio per favorire. Tutto un lavoro, per esempio, sulla media valseriana, cioè appunto leggere l'archivio e leggere in parte la storia socio-economica del nostro territorio. Tenete conto che negli anni 60 e 70 fino alla metà degli anni 80 moltissimi amministratori pubblici, quindi sindaci, assessori, provenivano dal mondo delle ACLI, quindi anche qua c'era allora un'osmosi abbastanza, di dire, organica al mondo della Democrazia Cristiana. La formazione fatta a molti livelli ha fatto sì che tantissimi amministratori comunali fossero espressioni delle ACLI. E pensate qua, è toccato poco, ma pensate tutto il tema della cooperazione. Certo. Negli anni 60 la cooperazione legata sono le cooperative di consumo, negli anni 70, 80 tutta la cooperazione edilizia, migliaia e migliaia di persone hanno potuto tramite edilizia convenzionata accedere alla casa di proprietà, ad esempio. E lì c'è tutta una realtà. Negli anni 90 nascono le cooperative sociali, oggi c'è un sistema, c'è un consorzio, si chiama River, cui afferiscono molte di queste cooperative, che oggi dà lavoro a 1600 persone. Ma per dire che leggere le ACLI è leggere anche un pezzo della vita sociale, economica, politica e naturalmente anche, io dico, anche spirituale, perché poi evidentemente strappo è stato quello del 71 da Lumorosa, che l'Opelis, che a scuole gesuiti non c'è andato, però vedete che la scrittura era molto gesuitica e giustamente doveva legittimare o comunque evitare che la lacerazione fosse profonda, però questo ha significato anche, per esempio, che le ACLI sono state a Bergamo una parte significativa del post-concilio a Bergamo, quindi una realtà complessa, clericale come Bergamo, una situazione di laici cristiana che ricordo quando, anche nell'archivio, molto viene detto di Vincenzo Monandrini, per esempio, figura che sta al crocevia dei percorsi di formazione, di educazione, di lettura socio-economica anche in spiritualità. Adesso l'archivio è sistemato. No, volevo chiedere, rispetto all'accessibilità da parte degli studiosi o degli interessati, cioè come pensate, come ACLI appunto, e poi l'altra domanda che magari faccio anche a Mario è il discorso delle prospettive di valorizzazione di questo archivio, no? Cioè. Sì, sulla prima rispondo velocemente, che questo c'è, noi da gennaio inizierà a lavorare da noi Dario Paroli, che è peraltro laureato in storia, e si occuperà tra i vari impegni e mansioni anche di gestire l'accesso all'archivio, perché voi sapete che il problema non è solo il riordino dell'archivio, ma impedire che poi chi accede lo tenga intatto e quindi non ci sia non solo che vengano trafugati i documenti, ma ci sia anche confusione. Per cui, anche come supporto. Ma anche supporto al ricercatore. Cioè, quindi di fatto, Dario, tenete conto che noi continuiamo a lavorare in stretta sinergia con il professor Fenili e il professor Pellicioli, quali rinnovo la mia gratitudine. Cioè, quindi Dario, Mario e Cesare di fatto coordineranno. E poi c'è l'iniziativa che chiederei a professor Pellicioli di presentare, che va dentro la valorizzazione dell'archivio. Sì, è importantissimo quello che ha detto Rocchetti, e noi gli siamo particolarmente vicini perché continuiamo a immaginare le difficoltà che lui ha a portare avanti queste cose. Lui non lo dice, ma guardate che ci sono delle difficoltà, quindi noi spingiamo, speriamo ad esempio nella continuazione del lavoro, e io sono convinto che con l'aiuto di Rocchetti, quando ci saranno delle risorse, verranno messe a disposizione. C'era la questione del personale, perché non è un caso straordinario che qualcuno abbia riordinato l'archivio della sua associazione o del suo sindacato, avete parlato della CISL, o di altro, e dopodiché è andato tutto praticamente mezzo distrutto, ribaltato, messo in confusione, eccetera. Quindi è un segnale importante che sia stato messo a disposizione anche del pubblico una persona qualificata, come è appunto Dario Acquaroli. Però Daniele Rocchetti, ma credo un po' tutti noi che ci lavoriamo, vorremmo guardare avanti, molto, direi sempre avanti, per cui la borsa di studio è stato un po' l'approdo quasi tranquillo a cui siamo arrivati. È stato fatto il concorso, è stata assegnata la borsa di studio a Michele Linfozzi, il tema sarà le ACLI tra emigrazione e immigrazione, e il lavoro di ricerca verrà seguito da noi assieme appunto a Dario Acquaroli. Quando dico noi, dico io e Cesare. Ecco, che mi convince questa voglia di guardare avanti, cioè la voglia di valorizzare questo archivio, perché è inutile conservare se non si valorizza. Quindi direi, più che possiamo, invito tutti proprio anche ad essere partecipi di questa voglia davvero di lavorare in questo archivio e su questo archivio. Non ultimo, so che c'è l'impegno, Rocchetti l'ha sempre garantito, anche a dare una collocazione logistica a questo archivio che non sia quella che ha adesso, non perché sia brutta, per carità, me ne guardo bene, messa a confronto con altri archivi dovremmo essere già contenti, però mi pare che ci sia addirittura l'intenzione di trovare locali e collocazioni molto belle, molto interessanti, che vadano incontro anche al ricercatore. Sapete oggi quanto è importante un ambiente che ti aiuti ad essere anche più sereno, ecco, che non finiamo negli scantinati, non finiamo e siamo abituati spesso ad andarci, chi lavora in queste cose sa che finisce negli scantinati quando parliamo di archivi. Ecco, Daniele Rocchetti ha garantito che non sarà così e io gli credo. Grazie. L'ultima cosa, l'inventario è comunque consultabile, cioè dall'archivio, dal sito delle ACLI si può consultare l'archivio, quindi comunque la ricerca è online e la ricerca è possibile farla, poi dopo ovviamente dovrete prendere appuntamento, immagino, con Dario Acquaroli per poi poter consultare. Lo cerco là in fondo. www.archivergamo.it in home page trovate archivio storico e troverete proprio il PDF con le 750 pagine proprio tutto di archivio, di descrizione analitica dei fattori. Quindi anche questo è del materiale a disposizione. Tra le notizie più datate, sto facendo un po' una ricerca sul circolo. Lui è Maurizio Mazzocchi, Villa d'Albergo. Può parlare al microfono per le esigenze di... Io sono uno degli interessati a contattare Dario, perché sto facendo una ricerca intanto di un archivio parrocchiale che ormai credo che sia conclusa, appunto sul circolo di Villa. E tra l'altro i diversi articoli che sono stati pubblicati, anche abbastanza datati, c'è uno interessantissimo del 1946, l'Eco di Bergamo, che racconta la cerimonia di inaugurazione del circolo del 46. E poi quelli più datati non sono altro che firmati da quelli che erano i collaboratori parrocchiali, i reverendi collaboratori parrocchiali. Quindi è interessante poi tutti gli appelli, i riferimenti anche agli scritti, le famose leve del lavoro, le scuole, ecco, anche se poi successivamente, come questi sacerdoti sono stati trasferiti in altre parrocchie, si è perso un po' anche la continuità. E comunque c'è un ricco materiale e l'intenzione è arrivare anche di una pubblicazione, anche attraverso del materiale fotografico. Per cui io chiederò per vedere cosa è possibile. Sì, la documentazione dei circoli non è stata ancora riordinata e inventariata. Però ma è sufficientemente consultabile, almeno non ordinata, cioè ci sono i faldoni che mi sembra tutto sommato potrebbero orientarla. Dentro ci sarà certamente disordine. C'è qualcun altro? Niente, allora siamo nei tempi, qui ha detto entro le 7 volevamo finire. Io ringrazio le relatrici per l'interessante resoconto che ci hanno fatto, ringrazio il Presidente delle ACLI Daniele Rocchetti e tutti voi che avete presenziato. Volevo solo ricordare che noi ci vediamo dopo le feste di Natale, il nostro prossimo seminario riguarderà un altro argomento, la musica, la storia della musica, interverrà Giuseppe Berbeni che parlerà della riforma dell'organo classico tra contesto generale e dinamiche territoriali. Grazie a tutti e buone feste, buon Natale. E per cui interessasse c'è Trecce di Stampa, la strenna di Natale di Archivio Bergamasco, che riguarda un'edizione della Divina Commedia di Bernardino Benanni. Siamo per... oh cielo, come l'attacchiamo qua?